Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Domani a Roma i rappresentanti delle associazioni dell'autotrasporto saranno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si parlerà delle questioni al centro del dibattito e dell'attenzione del settore. E la convocazione giunge nei giorni in cui si discute della legge di stabilità e di alcune novità che riguardano da vicino il mondo dell'autotrasporto. Tra queste, l'abolizione della norma sull'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, norma introdotta per contrastare l'illegalità. Di questo parliamo oggi con Thomas Baumgartner, presidente di Anita, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo dall'incontro di domani pomeriggio al Ministero. Quali sono i temi in testa alla vostra agenda? Ma noi ci siamo già incontrati col Ministro ancora in giugno, nel quale abbiamo fatto presente le problematiche del nostro settore. Il Ministro ne ha preso nota. Dobbiamo dire che nel frattempo alcune cose sono state messe sulla scia corretta. Certo, rimangono tante altre cose da fare. Noi insistiamo molto sul continuo dell'azione per la regolarità del nostro settore. Noi riteniamo che è fondamentale che gli operatori che operano sul mercato, che siano iscritti all'albo dei trasportatori, siano completamente in regola. In regola vuol dire essere in regola con la capacità finanziaria, ossia con il pagamento dei contributi degli oneri sociali, ma non solo, ma anche della fiscalità, dell'IVA e così via. In questo senso l'albo ha fatto qualcosa, bisogna fare qualcosa di più, ossia mettere in mano all'albo quegli strumenti per poter anche escludere dall'albo operatori che non sono in regola. Un'altra cosa importante che vogliamo portare avanti è il sostegno del governo sulle imprese che investono nel trasporto intermodale ferroviario. Un altro punto molto importante è il fatto che noi trasportatori italiani subiamo ancora molto dumping sociale dei trasportatori dei paesi dell'Est Europa, con dei costi di manodopera molto inferiori. Abbiamo già chiesto al governo che si facesse un intervento per permettere la decontribuzione e la defiscalizzazione degli oneri sociali per gli autisti sulle tratte internazionali. E ora veniamo alla novità prevista dalla bozza della legge di stabilità, che prevede appunto l'abolizione dell'obbligo della tracciabilità dei pagamenti delle fatture per i servizi di autotrasporto. Qual è la vostra posizione? Ma in linea generale noi operiamo con aziende, perciò non vediamo l'esigenza che qualcuno paghi in contante. Certo, ci sono alcuni settori che hanno ancora queste esigenze, soprattutto il settore dell'ortofrutticolo, però riteniamo che oggi sia possibile fare i pagamenti dei nostri servizi di trasporto, dei noli pagati dai nostri clienti, committenti, venga fatto con sistemi tracciabili. Possono esserci pagamenti in contante, ma non pagamento del nolo del servizio di trasporto, ma per l'incasso del cosiddetto contrassegno, cioè in quei casi dove noi per conto dei nostri clienti incassiamo il controvalore della merce che consegniamo. E contro l'abolizione della norma che vieta l'uso del contante per il pagamento dei trasporti merci si schiera Cinzia Franchini, presidente di CNA Fita. L'ha intervistata per noi Massimo De Donato. Questa norma serviva anche ad arginare quelli che sono fenomeni di infiltrazione malavitosa, quindi noi ci auguriamo che il governo faccia un passo indietro rispetto a queste determinazioni. Ecco, però la norma precedente aveva comunque delle criticità che le stesse associazioni di categoria avevano segnalato. Sì, una criticità soprattutto molto importante, quella che non era prevista la sanzione rispetto al non rispetto della norma, per cui noi, come abbiamo fatto in passato, richiediamo che venga prevista una sanzione ed eventualmente, se ci sono criticità, che queste vengano riviste e riaggiornate. Quindi sarebbe opportuno anche mantenere una soglia minima al di sopra della quale tracciare questi pagamenti? Questo va discusso con gli operatori. Se per soglie particolarmente basse occorre lasciare una certa discrezionalità, noi siamo disponibili, ma stiamo parlando di soglie appunto particolarmente basse. Io credo che la norma nel suo complesso vada bene così com'è. E adesso ci occupiamo di navi e di trasporti via mare. All'Assemblea Generale di Confitarma, che si è svolta a Roma, il ministro Delrio ha annunciato che il governo è pronto a ripristinare gli incentivi per favorire il trasporto delle merci attraverso appunto il mare. Non si chiamerà ecobonus ma mare bonus. Del Rio ha auspicato di poter inserire il provvedimento entro i termini di conversione della legge di stabilità. E poi, a proposito della riforma della governance dei porti, ha ribadito che il decreto è definito ed è ora sul tavolo del ministro della semplificazione della pubblica amministrazione, Marianna Madia. Della flotta nazionale e delle prospettive di sviluppo dei traffici internazionali per l'intero comparto della logistica abbiamo parlato con il presidente di Confitarma, Emanuele Grimaldi. Usando una metafora che ha a che fare con il mare, diciamo che dopo anni difficili ora la flotta italiana sta riprendendo il largo? Credo di sì, anche se oggi il discorso è molto complesso. Quando si parla di marineria bisognerebbe poi analizzare un po', e non è solo per l'Italia ma per tutto il mondo, i vari comparti della marineria. Certamente voglio dire, si può parlare di ripresa per alcuni settori importanti come sono il settore croceristico, sicuramente anche per i traghetti che beneficiano del minor costo del petrolio, e così vale anche per il settore cisterniero. Ci sono altri settori che invece ancora vivono un momento molto difficile e complicato, anzi che dura da tantissimi anni, per esempio il carico secco. Cosa significa navi più grandi per l'intero comparto della logistica nazionale? Vuol dire che si raggiungono delle economie di scala, in alcuni casi di scopo di scala, e si riesce, voglio dire, ad avere anche un miglioramento della sostenibilità ambientale, perché ovviamente per navi grandi il consumo e le emissioni sono minori rispetto alle navi più piccole. Per il settore dell'autotrasporto, per esempio, cosa potrebbe significare? Il settore dell'autotrasporto è molto importante, perché diciamo prima vi erano navi nel Mediterraneo che portavano 100 camion, più o meno le navi moderne portano 200 camion con gli stessi consumi e con la stessa. Quindi praticamente questo vuol dire che con un equipaggio e con anche diciamo un solo motore che consuma più o meno lo stesso si riesce a trasportare 100 camion in più. Questo vuol dire ovviamente che si è più competitivi rispetto al trasporto stradale, e questo aiuta diciamo quel discorso di diciamo rimodulazione modale. La Commissione Navigazione a Corto Raggio di Confitarma ha fotografato la rilevanza socio-economica e l'impatto ambientale dei servizi di trasporto marittimo. Lo studio è stato presentato dal presidente della Commissione, Roberto Martinoli. Lo abbiamo intervistato. Sono due studi, uno è uno studio che riguarda l'impatto socio-economico del settore, diciamo così, del cabotaggio italiano. Riassumo i due numeri principali: 5 miliardi di fatturato, 20 mila di dipendenti diretti, e poi con i vari moltiplicatori ovviamente l'impatto è ancora molto più elevato di questo. E un secondo studio riguarda la parte, diciamo così, di paragone tra le differenti modalità di trasporto, dove vengono considerati i costi diretti e indiretti e dove la nave ha certamente un enorme vantaggio nei confronti della ruota e ha un vantaggio anche nei confronti della ferrovia. Esistono autostrade invisibili, chiaramente mi riferisco alle autostrade del mare. Certamente esistono, e se ricordo bene, qua, se lei allinea tutti i mezzi che ogni giorno potenzialmente vanno sulle nostre navi, sono 900 chilometri di autostrada occupata, quindi questo è un numero importante. Però le autostrade del mare vanno incentivate? Credo che ci sarà un ritorno, diciamo così, molto importante verso questo tipo di politica, e nelle tutte le varie contatti che abbiamo avuto con la comunità europea, l'obiettivo che si sono posti è quello di levare entro il 2030 il 30% del traffico stradale, mezzi pesanti, oltre i 300 km di percorrenza, e il 50% entro il 2050. Se non facciamo questo ci saremo paralizzati, non ci muoviamo più. Su ecobonus, diventato ora mare bonus, e autostrade del mare, da tempo si concentra l'attenzione del mondo dell'autotrasporto, anche in considerazione di una rete stradale ed autostradale ormai datata. Al nostro microfono Pasquale Russo, segretario generale di FAICONF Trasporto. La possibilità di incentivare l'utilizzo delle autostrade del mare è una possibilità riconosciuta anche dall'Unione Europea, che addirittura l'ha definita tempo fa come una buona pratica, che è stata anche mutuata dalla stessa Unione Europea e che quindi ha tutte le ragioni anche di tipo politico per essere riproposto. E inoltre sarebbe una grossa mano per aumentare la possibilità di utilizzare le strade alternative e per aumentare la comodalità tra gomma e mare, che tanto bene fa non soltanto al trasporto ma anche alla nostra industria, perché regala, diciamo, competitività e regala anche tempi di consegna più brevi. Hashtag Autotrasporti finisce qui. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.